La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi in questa versione estiva, extended version della Rosa Purpurea, il settimanale cinema di Radio 24. La ballata che state ascoltando, e forse qualcuno di voi l'avrà anche indovinata e individuata, è tratta dalla colonna sonora di Yuppidù di Adriano Celentano, mitico film per la sua originalità, per la sua particolarità, diventato assolutamente un film di culto. Nella scena a cui questa canzone faceva da sfondo sonoro, il ritmo del brano andava in sincrono con quello di due bellissime gambe femminili che passeggiavano a passi lunghi e ben distesi, mettendo in mostra snellezza e agilità, su di una passerella di legno posata sulla laguna di Venezia. Quelle gambe erano di Charlotte Rampling. E allora abbiamo voluto cominciare così, con questa camminata evocata dalla colonna sonora in Yuppidù da parte di Charlotte Rampling, perché nella nostra calda estate della Rosa Purpurea proprio Charlotte Rampling è l'ospite odierna nelle nostre interviste. L'ha incontrata alla Cineteca di Bologna la nostra Chiara Pizzimenti. L'attrice era ospite del Festival del Cinema Ritrovato come testimone di quel grande film che fu La caduta degli dèi di Luchino Visconti. Ma prima di ascoltare l'intervista ripercorriamo in questa scheda carriera e successi di Charlotte Rampling. The Look, così la chiamava Dirk Bogarde due volte protagonista con lei sullo schermo, una definizione perfetta per raccontare gli occhi spietati e insieme dolci, con sfumature verde smeraldo e nocciola chiaro, di Charlotte Rampling, figlia di un colonnello inglese e di una pittrice, fu educata a Parigi e cominciò giovanissima, è nata nel 1946, a fare la modella. Già dalla metà degli anni 60 l'approdo al cinema, le prime apparizioni in Inghilterra e poi film d'autore in Italia. Scelta a 23 anni da Luchino Visconti per La caduta degli dèi, lavorò con Patroni Griffi e Giuliano Montaldo. Entrò nell'immaginario collettivo con il ruolo dell'ex deportata che incontra l'ufficiale SS di cui era il desiderio sessuale nel Portiere di notte di Liliana Cavani. Dopo l'Italia, la Francia, Claude Lelouch, Patrice Chéreau. Più che Hollywood e New York, la sua America cinematografica, Woody Allen la chiama come donna dei suoi sogni in Stardust Memories, il verdetto accanto a Paul Newman, il film firmato da Sidney Lumet. In anni più recenti il sodalizio con l'enfant prodige del cinema francese, François Ozon, tre film, Sotto la sabbia, Swimming Pool e Angel. E ancora Gianni Amelio, Laurent Canté, Todd Solondz e Lars von Trier, per cui è la madre, ennesimo ruolo da cattiva in Melancolia, presentato all'ultimo Festival di Cannes, come il documentario che racconta la Rampling. Il titolo non poteva essere che The Look. E la chiacchierata fra l'inviata della Rosa Purpurea e la grande attrice comincia proprio dal rapporto con Luchino Visconti, soprattutto sul set. Buon ascolto. Chiedeva un alto livello di perfezione. Lo chiedeva prima di tutto ai tecnici, agli scenografi, ai costumisti e agli attori, a tutti quelli che lavoravano con lui. Prima di iniziare le riprese, aspettava che tutto fosse pronto e anche gli attori avevano tutto il tempo di prepararsi. Al momento del ciak si doveva dare il massimo ed era meglio non fare errori. Era cattivo, sgridava. Si arrabbiava molto se le cose non andavano bene. Si arrabbiava se le persone che avevano avuto tutto il tempo per prepararsi non facevano bene il proprio lavoro. Era molto paziente nell'attendere che tutto fosse pronto, ma quando tutto era a posto, allora doveva funzionare tutto perfettamente. Ma cosa vuoi fare? Hanno chiesto che sia lei a consegnare il riscatto. Qua dentro c'è un anticipo. Venga, su. Deve solo dimenticare la valigia su quel treno. Ma perché proprio io? Non voglio. Deve farlo per Francesco. Ma io... Su, salga. Io l'aspetterò all'ultima stazione. All'inizio della sua carriera c'è molta Italia, molto cinema italiano. Come mai lei ha scelto questi film? Le proposte venivano da qui? Italy offered me roles that I wouldn't necessarily have found in England or in America. Later on I began to work in France and I found the roles. L'Italia mi ha offerto ruoli che non potevo trovare in Inghilterra o in America. Dopo ho cominciato a lavorare in Francia, dove ero interessata al cinema d'autore. Non cinema sperimentale, ma cinema verità, un cinema che rispecchiasse la realtà. In a real form of acting, not just for divertenti, not just for fun, but something that I hope meant something. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Ha fatto film molto importanti, oltre a Visconti, La caduta degli dèi, anche un film che l'ha resa, questa sì, famosissima, Il portiere di notte, di Liliana Cavani, un film che lei ricorda come nella realizzazione, un film che è stato molto chiacchierato, molto parlato. Come è stato farlo? It was a very difficult film to make, obviously, because the subject was so, you know, tremendously. Era un film molto difficile da fare per il soggetto, prima di tutto. Era così tremendamente forte e reale. E non erano passati molti anni, appena 25 da quei fatti. Era difficile e certamente non si stava a proprio agio, ma sapevo che stavamo facendo un lavoro veramente importante. Non sapevamo se il film sarebbe stato importante, ma sapevamo che era importante esprimere, mostrare, mettere quegli argomenti nel film perché la gente potesse riflettere su quanto era accaduto. Non ha più lavorato con Liliana Cavani dopo. No, solo in un film. Lei mi ha chiesto di fare anche il suo film successivo, ma era troppo complicato tornare a lavorare con lei. Non l'ho più fatto, ma siamo amiche. Anche con Visconti non c'è stata un'altra occasione. Yes, there was one. There was an occasion which, and I was heartbroken about it, in fact, because I was ill at the time. Sì, ce n'è stata un'altra. C'è stata un'occasione. Io sono rimasta con il cuore spezzato. Il film era L'Innocente, il suo ultimo film. Io ero impegnata e ho dovuto dire di no. Lui non stava bene al tempo e non poteva aspettarmi. L'aveva scritto per me e mi è dispiaciuto moltissimo. He'd actually written it for me, so I was very heartbroken about that, and then he passed away. Un'occasione persa, ce ne sono altre nella sua carriera, altri film che avrebbe voluto fare ma non è successo. Sì, succede, è successo. Talvolta si piange un po', talvolta si piange molto. Pensi che la tua vita sia finita e poi si va avanti. Posso chiederle un titolo almeno? No. Ecco quali sono i segreti della nostra magia. Essere belle e desiderabili, far felice il proprio amante ed essere amica dei suoi amici, avere protezione e potere. Sì, essere amate, poter amare. Avete visto quelle donne sui ponti? Vendono il loro amore ai mercanti, ai marinai, e le tariffe sono fissate dal Senato. Essere ricchi e potenti, questa è magia. Gemme, oro, gioielli. La gente ti guarda e ti odia. Guarda la tua pelle bianca e sputa. Quando vado a San Marco e prego il Signore, mi rivolgo al potere più grande di tutti, al potere di Dio, perché io credo in Dio. I bambini si portano dentro una magia naturale che a poco, crescendo, sono costretti a distruggere. E allora cominciano a pregare a Santissima Trinità e ai Santi. Lei ha attraversato molti generi diversi nei film. Una scelta? Ha voluto provare cose diverse o sono arrivati copioni così? No, it's a choice I've made of. Sì, una scelta. Ho scelto un tipo particolare di film durante momenti diversi della mia carriera per la mia crescita personale. Sentivo che questi personaggi avessero qualcosa a che fare con me, con il mio rapporto con il mondo. Ci deve essere una relazione fra me e il personaggio che interpreto. Non importa che tipo di relazione, ma deve essere potente. I wanted to talk to you. I thought maybe... Maybe you could get some sympathy. You came to the wrong place. What makes you so tough? Maybe I'll tell you that later. Is it gonna be later? Not if you don't grow up. You're like a kid. You're coming in here like it's Sunday night. You want me to say you have a fever so you don't have to go back to school. Why won't you understand? I do understand, Frank. Believe me, I do. You say you're gonna lose. Is it my fault? Listen, the damn case doesn't start before tomorrow, and already it's over for you. It is over. You want to be a failure? Then do it someplace else. I can't invest in failure, Frank, anymore. È arrivata in qualche modo tardi al cinema americano. Non ha sentito le sirene di Hollywood. Non le interessava quel tipo di cinema. No, I did. I went to Hollywood quite young, but I didn't stay. Yes, I made 3 Hollywood films and I was there in the 1970. In realtà sono andata a Hollywood abbastanza giovane, negli anni 70, e ho fatto 3 film. Film strani, non brutti, ma nemmeno troppo interessanti. Però mi sono subito resa conto che il modo di vivere a Hollywood e il modo di fare film non corrispondeva al mio sogno di fare cinema. Sono europea, non americana, e non ho niente in comune con l'America. Hollywood era troppo estranea per me. A way of life that nourishes me, and I found that Hollywood was too weird. In effetti i suoi lavori americani sono con due registi newyorkesi più noti, Woody Allen, Sidney Lumet. So New York's different. New York is a city for everybody, so anybody can go there and maybe make something work, right? New York è diversa, è una città per tutti. Chiunque può andarci e magari realizzare qualcosa. Los Angeles era davvero troppo strana per me. A New York ho fatto film e amo la città. I've lived there happily while I was working. Yeah. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, seconda parte della nostra intervista della settimana a Charlotte Rampling, grande ospite di questa intervista con Chiara Pizzimenti. Abbiamo concluso parlando di New York, cominciamo questa seconda parte parlando di un newyorkese, appunto, come Woody Allen, che scelse Charlotte Rampling come sua protagonista per Stardust Memories, uno dei suoi film più particolari degli anni 70. Proprio da una clip di Stardust Memories cominciamo, sentendo poi la valutazione di Charlotte Rampling sull'operato e sul rapporto con Woody Allen. There's a doctor here that thinks I'm beautiful and interesting. Are you seeing anyone? You look thin. There's a doctor here that's crazy about me. Are you seeing any? There's people. Be too close. I could just swim a lot. I can't feel anything. Yeah, I don't. I can't concentrate. There's no point doing too much. Some fresh air. Feel better. Posso chiedere di questi due registi, Woody Allen e Sidney Lumet, come è stato lavorare con loro? Woody Allen is very New York. What he was, now he makes films out of New York. Woody Allen è ed era davvero New York. Adesso fa film in Europa, ma allora non lasciava mai Manhattan. I suoi film erano sempre la sua storia, se stesso che si raccontava, lo stesso tema, le stesse domande che risolveva con il suo spirito da ebreo newyorkese. Io ero una persona presa da fuori in questo meccanismo. È stato divertente lavorare con lui. And he was a great playmate at that time because we had a lot of fun. And Sidney was a highly tuned professional. Sidney era l'esempio della professionalità. Faceva 2 settimane di prove in un grande studio. Dopo, tutti sapevamo quello che dovevamo fare e quando si iniziavano le riprese, si saliva consapevoli sulla giostra. Era bravissimo con gli attori. Sidney Lumet sapeva tirare fuori da ognuno quello che desiderava. Era un grande direttore di attori. I was worried when you didn't come home. Are you gonna tell my daddy? Yes, maybe I will. Then why don't you? He would love it. I'm not so sure about that. How can you be so naive? He's the king of orgies. Didn't you know? Julie? Yes. Would you like to go out to dinner tonight? Ha lavorato negli ultimi anni molto con un regista francese giovane, l'enfant prodige del cinema francese, François Ozon. Sono 3 film, mi sembra, che lei ha fatto con lui, 3 film molto diversi, perché lui tende a diversificare la sua attività. Che tipo di regista è? Com'è il suo rapporto con un giovane regista? But he was like a sort of twin brother to me. We just had this incredibly. È come un fratello gemello per me. Abbiamo subito avuto questa sensazione di contatto immediato. Sentiamo e sappiamo le cose senza dircele, come una persona conosciuta in una vita precedente. Per me è così, François. Had a past life with him, and that was François. Yeah. Di recente io l'ho vista, ha recitato in diversi ruoli di madri veramente spietate. Quella del The Duchess, mm-hmm. nel film di Lars von Trier. Una madre. Terrible mothers. Right. Well, as long as they're terrible, that's fine. You know, as long as they have something really sparky and spunky and outrageous and different, then they're all right. I just can't bear the ordinary, and I've never accepted a role which is just not really very interesting. These women have got to be either you hate them or you don't forget them. Sono più di 20 anni che ogni minuto penso solo a mia figlia. Mentre lo sto lavando, mentre la carezzo, certe volte lei mi guarda con gli occhi disperati. Io dico dentro di me: perché non muore? Gianni Amelio, Le chiavi di casa, mm-hmm. quella era una madre sofferente, ma una madre positiva che lottava. Oui, una madre positiva quella, una madre bella, ma madre quella. Yeah, we mustn't forget her, because she was a very beautiful mother. I just have one thing to say. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages. Gabby, please. Is everyone in your family start grieving mad? I smile and I smile and I smile. You're lying to all of us. I'm not really happy. Things could have been a lot different. Yes, Michael, they could have been. Just forget it. Stop dreaming, Justine. Ha definito il film di Lars von Trier, Melancolia, un film veramente molto, molto bello, un film particolare, al di là di tutto quello che c'è stato a Cannes, commenti. Com'è stato lavorare con Lars von Trier? Lars is a very, he has to have his world very closely guarded, and so you usually... Lars ha bisogno di avere tutto il suo mondo attorno, gira vicino a dove vive, non si stacca da casa sua, è tutto fatto in modo ermetico e organico. And it's all done in a very hermetic and organic way. I mean, you just sort of do it, and little by little he understands what's going on, and then from what you're doing he sort of... Poco a poco si crea il film e lui capisce quale strada prendere. Segue la sceneggiatura, ma preferisce che le cose si facciano per poi costruirle come vuole che accadano. Then he can construct them as they're happening. Il costumista di Visconti, Piero Tosi, ha detto queste parole di lei: bellezza, severità, spregiudicatezza delle donne del suo tempo. Si sente di rappresentare questi aggettivi, di essere così? Maybe, yeah, I don't know. You don't really know what. Non lo so. Fino a che non si va molto avanti nella vita, non si sa che cosa si è, e solo allora si guarda indietro. Tante persone ti dicono: tu eri questo, e tu rispondi: sì, forse. Io non mi metto a sedere pensando a cosa potevo essere. Sono contenta però di frasi come quella di Piero Tosi, che io lo fossi o no, chi lo sa. I mean, whether I was that or not, who knows. Ho compiuto 55 anni il mese scorso. Vi dico subito che non c'è nulla a Boston per le donne che hanno passato i 40 anni. Non mi dite che non è vero. Ho fatto il giro dei bar di quella snob città del cazzo almeno un centinaio di volte. E vi assicuro che non c'è niente che possa somigliare neppure lontanamente a Leg Bar. Non capisco come un ragazzo tanto bello abbia potuto nascere qui. In questa fogna. Per la verità, sono sempre stata attratta dal sud, ma non avevo mai pensato a Porto Principe. Per me Porto Principe era un posto per cretini. Non esisteva. Un parco bestiame. Eppure da 6 anni vengo qui ogni anno e ci resto tutta l'estate. Scendo sempre in questo albergo. È tranquillo, pulito. La spiaggia è bella. Mi basta arrivare qui per sentirmi finalmente a casa. Ha riguardato la sua vita facendo il documentario The Look, aiutando la regista, collaborando con lei in questo documentario. Yeah, but I didn't really. It's not about my career. It's about just about life. Sì, anche se non riguarda solo la mia carriera, ma è più in generale sulla vita. Non torno indietro in aneddoti e ricordi. Sono pensieri condivisi e chiacchierati con amici. Just thinking about things. La rosa purpurea. Ancora la Rosa Purpurea, Franco D'Assisti in studio per affrontare a questo punto l'ora di cinema di Radio 24, l'ora di attualità cinematografica dopo le grandi interviste della Rosa Purpurea di questa estate. Parliamo subito di una settimana particolare, una settimana nella quale arriva piuttosto copioso il prodotto cinematografico, anche di ottima qualità sotto il profilo critico, diciamo così, magari non di grandissimo impatto, ma come sempre il nostro consiglio è quello di film di andarli a vedere per scoprire poi che forse popolarità e qualità spesso possono andare, anzi devono andare anche a braccetto. E allora noi andiamo come sempre a riepilogare nei nostri titoli di testa i temi principali della trasmissione, e però c'è anche un appendice, perché nella parte conclusiva del programma parleremo anche di una grande kermesse che si è appena conclusa a Riccione, le giornate professionali di cinema versione estiva, che sono state un grande punto di incontro per dare un'occhiata ai listini che ci aspettano per l'autunno 2011 e l'inverno 2011-2012, ma anche per incontrare tanti protagonisti, alcuni dei quali, su tutti Checco Zalone, ascolteremo proprio qui alla Rosa Purpurea più tardi. Quindi insomma, occhio al cinema di oggi, ma anche a quello dell'immediato futuro dopo l'estate. Titoli di testa. Simone è una bambina di 8 anni che dopo la scomparsa del padre instaura un legame ossessivo con una pianta che le parla con la voce del genitore. È la commovente storia de L'albero, il film con Charlotte Gainsbourg, nelle sale da questo weekend. Un noir tutto italiano nei nostri cinema. Il giovane radiologo Bruno riceve in eredità una villa sperduta sui Monti Sibillini, ma i vicini sono intenzionati a portargli via tutto. È L'erede, diretto da Michel Zampino. Torna Wayne Wang, il regista che stregò il mondo con Smoke e Blue in the Face. Nel ventaglio segreto, Wang racconta la storia di due amiche, quasi sorelle, legate da antiche tradizioni e da un destino scritto su un misterioso ventaglio. Esce in Italia Get Him Into the Greek, in viaggio con una rockstar, che racconta l'esilarante viaggio di un divo del rock e del suo assistente verso il concerto di apertura di una tournée. Ma gli imprevisti non mancheranno. E allora cominciamo con Wayne Wang, cominciamo con un regista che mi sta molto a cuore, anche se non ha sempre fatto cose memorabili, ma quando le ha fatte memorabili, insomma, sono rimaste davvero nella memoria collettiva. Erano gli anni 90, con Smoke, Wayne Wang inventava una strepitosa storia commovente, toccante, divertente, pungente, sulla New York contemporanea, con un cast di attori veramente enorme, su tutti un grande Harvey Keitel nei panni di un tabaccaio molto sensibile. Molti di voi lo ricorderanno, è stato un film generazionale per chi in quegli anni, all'inizio degli anni 90, aveva appunto magari 25-30 anni. Ebbene, poi Wayne Wang è andato avanti con alterne fortune, ma adesso arriva il suo nuovo film che si intitola Il Ventaglio Segreto. È una bellissima storia, una bellissima storia di tradizioni, di legami ancestrali, che forse esce in un momento non particolarmente utile per un film di questo tipo. Insomma, l'estate, si sa, è più soprattutto evasione, soprattutto voglia anche magari di stare lì al fresco del cinema con l'aria condizionata a ridere un po'. Qui si partecipa molto, si empatizza molto con la storia di queste due, anzi quattro, come sentiremo, protagoniste, ma magari, ecco, forse una collocazione autunnale era un po' più adatta a questo film. Misteri della distribuzione, speriamo che comunque la gente abbia voglia di vedere questa raffinata storia, di cui cerchiamo di cogliere qualche suggestione nella prima clip. Sentiamo. Il mondo cambia continuamente. Dobbiamo guardare al passato per scoprire ciò che non cambia. Conosci la storia della nostra famiglia? Stiamo parlando di molte, molte, molte generazioni fa. Si chiamava Fiori di Neve e aveva un forte legame con Giglio Bianco. Furono sorelle giurate per tutta la vita. Potevano solo scriversi. Non avevano altra voce che quella. E avete capito un po' la storia, insomma, in cosa consiste. Ispirato al romanzo di Lisa See, intitolato Fiore di Neve e il Ventaglio Segreto, racconta proprio la storia di queste due bambine, Fiore di Neve e Lily, Giglio Bianco nella traduzione nel film italiano, in italiano del film, due bambine di 7 anni, siamo nella Cina del XIX secolo, nella Cina dell'Ottocento, due bambine con un'estrazione sociale diversa che però subiscono lo stesso rito, dico subiscono perché è assolutamente atroce, visto soprattutto con gli occhi di oggi, ovvero quello della fasciatura dei piedi, nello stesso giorno, alla stessa età. Questo avvenimento e il fatto che per motivi vari si incontrino unirà in maniera totale, indelebile, le loro storie e i loro destini, con un legame che ha proprio un vero e proprio nome nella tradizione della Cina, ovvero Lao Tong, una sorta di vincolo di sorellanza, diciamo, che va oltre l'amicizia, ma diventa mutua assistenza nel corso degli anni e nell'eternità. Ebbene, parallelamente a questa storia, nella Shanghai di oggi, frenetica, Nina e Sofia, due giovani ragazze discendenti di quella Lao Tong, cercano di capire cosa ci sia dietro il loro destino, dietro la loro storia, attraverso un ventaglio misterioso nel quale le ragazzine di tanti, tanti, tanti anni fa avevano segnato un pochino i passaggi epocali e personali della loro vicenda. E in questa storia, in questo momento, chiaramente c'è un po' la resa dei conti di questo film, lo scoprire il proprio passato per guardare meglio al proprio futuro. Sentiamo questa clip con Hugh Jackman. Quando eravamo ancora insieme, Sofia scompariva per diverse ore ogni notte. E non mi diceva mai dove andava, credevo incontrasse qualcun altro, così una notte l'ho seguita. E dove andava? In una casa dei bagni, a Luan. La cosa strana era che la casa dei bagni era riservata agli uomini, doveva travestirsi per poter entrare. Già. Era vestita da uomo, vero? Sì, perché? Lo frequentava suo padre, quel posto. Bello, suadente, toccante, un film delicato come ha saputo sempre farci vedere Wayne Wang nelle sue regie, con una star internazionale appunto come Hugh Jackman, che avete sentito nella parte del presente, e con un grande giallo alla fine da risolvere, perché solo capendo, comprendendo quello che c'è su questo ventaglio misterioso, le due protagoniste dell'oggi potranno ricollegarsi al loro passato più remoto. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, siamo sempre in cerca di novità cinematografiche, abbiamo parlato del ventaglio segreto di Wayne Wang, adesso un altro film che non ci fa mancare certo una certa tensione emotiva, come abbiamo detto prima, appunto un film non particolarmente adatto all'estate, magari quel ventaglio segreto, film però peraltro molto, molto interessante, e qui siamo un po' dalle stesse parti con questo film che si intitola L'albero e che vede nel cast la sempre interessante Charlotte Gainsbourg con poi tutto un cast soprattutto australiano. Il film è diretto da Julie Bertuccelli e racconta cosa? Racconta di una famiglia felice fino a quando il padre di famiglia non si schianta contro un fico che sta di fronte alla sua casa, e la bambina, la sua figlia di 8 anni, Simone, è convinta che lo spirito del padre sia andato a risiedere proprio dentro l'albero. Si apre ovviamente a questo punto un rapporto animista con questa pianta che sarà poi al centro di questa toccante storia. Andiamo a sentire la clip. Papà! Non respira! Chiama un'ambulanza! Non ci posso credere. Non hanno ancora inciso il suo nome. Sono già 2 mesi. Ci mancherà per tutta la vita, tesoro. Ma è una cosa con cui dobbiamo imparare a convivere. No. Io so dov'è papà. Il suo spirito è andato a stare nell'albero. Ci salgo ogni giorno per ascoltarlo. Simone, è pericoloso! Scendi! Per parlarci. Papà, è la più bella cosa che abbia mai trovato. L'albero come simbolo di una vita, di un'altra vita, è un simbolo importante nel cinema, molto spesso proprio scelto, anche solo negli ultimi tempi, pensate ai casi di Avatar, cosa veniva giù dagli alberi, quale contatto, quale link con la vita si potesse avere dagli alberi, o pensate anche al fatto che Terrence Malick ha chiamato l'ultimo suo capolavoro The Tree of Life, l'albero della vita. E anche in questo caso l'albero e la vita comunque si incontrano, potremmo dire si scontrano, se non fosse una battutaccia. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ecco, ciao Franco e a tutti gli ascoltatori. Volendo fare una battutaccia, ogni figlia, soprattutto quando è una bambina, pensa che suo padre è un fico, e questa lo dimostra. Ecco, stiamo veramente degenerando, va bene, però è ottima, devo dire, questa, ti riconosco il tempo comico di questa, infatti è proprio un fico, come abbiamo detto prima. Ma raccontiamo un po' però meglio questa storia, perché Julie Bertuccelli aveva raccontato un bel film nella sua esperienza più famosa, diciamo, che era Da quando Otar è partito, che raccontava proprio il tema della perdita di una persona cara. Evidentemente è rimasta affezionata a questa tematica. Sì, no, senza dubbio, sei stato bravissimo tu a raccontarne la trama, e credo che anche il trailer per una volta non sia bugiardo sul film. Ma Bertuccelli ha portato l'albero fuori concorso alla Rosetta, e molti di noi sono stati convinti che forse meritava invece di giocarsi qualche premio, perché è un film molto particolare. Pone al centro quest'albero, e questa giuro non è una battuta ma semplicemente una considerazione, e questo rapporto animista, però curiosamente fortemente emotivo, nel senso che questa bambina e la regia della Bertuccelli piano piano porta anche lo spettatore a sentire all'interno di quell'albero, di quella forma vivente, anche se lontana da quella che noi siamo abituati a ritenere tale, l'anima di questo padre, perché effettivamente questa figlia lo ama così tanto, si rifiuta così tanto di perderlo, che in qualche modo riesce a mettere dentro quell'albero il padre. Non è facile raccontare una storia del genere al cinema. La Bertuccelli ha la sensibilità giusta, ha anche delle buone attrici. C'è da dire che la Gainsbourg, dopo aver sorriso un po' con Gondry, si sta specializzando nelle parti più tragiche possibili, insomma, da von Trier alla Bertuccelli è costretta a subire lutti e simili in maniera eccessiva. Però è un film molto strano, che non è assolutamente estivo, come dicevi tu, ma neanche Il ventaglio segreto, che però merita un po' d'attenzione, francamente. Anche perché l'aria condizionata, come abbiamo detto spesso, c'è, e quindi, come dire, il cinema d'estate può essere un'ottima evasione, anche un'ottima oasi in questo senso. Quindi perché una storia non debba poi a quel punto essere toccante, anche commovente in certi casi. Allora, questo è per quanto concerne l'albero. Prima di affrontare l'altro film di cui volevamo parlare con Boris Sollazzo, cominciamo invece a giocare con il nostro Blu-ray game di questa settimana. Più tardi sveleremo i vincitori della edizione della settimana scorsa, che ha avuto un successo di partecipazione clamoroso. Del resto, molti di voi alla fine avevano indovinato di cosa si trattava, per quanto avevamo cercato di essere il più cattivi possibili con la scelta delle tracce, ma insomma era un tale successo, un tale blockbuster mondiale, che era difficile poi non arrivarci. Però tante partecipazioni, tanta passione, di questo vi ringraziamo. Più tardi chiaramente sveleremo film, titolo, saga, diciamolo pure, e vincitori di questo cofanetto davvero straordinario. Però innanzitutto cominciamo a giocare col Blu-ray game di oggi. Che volontà per far questo. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. E questa era la prima clip. La Rosa Purpura è @radio24.it. Se avete già indovinato di quale altro capolavoro si tratta, più tardi ci saranno delle altre possibilità. Come sempre, la richiesta è quella di inserire da subito anche il vostro indirizzo privato per agevolare poi le eventuali operazioni di spedizione postale. Oh, bene bene, allora abbiamo anche giocato, abbiamo cominciato a giocare, adesso invece ci divertiamo, apriamoci al sorriso in questa calda estate cinematografica, perché dopo due film d'autore, due film di contenuto e di sensibilità, andiamo un po' sul piatto con questo film che si intitola in originale Get Him to the Greek. Il titolo originale sarebbe Portalo al Greco, sostanzialmente. Invece il titolo italiano è In viaggio con una rockstar e dice magari un po' di più di quello che ci troviamo dentro, un ritratto che non è la prima volta che viene fatto. Mi veniva in mente il Jack Black maestro di rock, insomma ritratto ironico di una vita tutta genio e sregolatezza di una rockstar. Allora abbiamo trovato una clip in inglese, allora ascoltiamone un brano. From the minute you touch down in London, you have 72 hours to get out of the snow to the Greek Theater in Los Angeles. Sorry, excuse me. Allora, questo è un po' il clima di questo film, che racconta la storia di Aaron Green, un impiegato per un'etichetta discografica. Il suo capo cerca un evento che si faccia, che si imponga nel mondo della musica, e Aaron ha un'idea, quella che, essendo passati 10 anni dall'uscita, dalla prima uscita di un album che fece grande scandalo, potrebbe andare a ricercarne il protagonista, l'autore, e realizzare il concerto proprio del decennale. Questo è un po' il plot iniziale. Ovviamente, Boris, da un film come questo ci si aspetta soprattutto di ridere. Succede? Succede assolutamente. Ecco, qua fai fatica a capire perché, diciamo, l'uscita non è robusta, perché invece si tratta proprio di un film estivo, un on the road comico, anche caldo in qualche modo, che dà quello che promette, forse anche qualcosa in più, perché poi c'è a fare da spalla Jonah Hill, che è uno di queste taglie forti maschili che sta dando molto, insomma, molto di questi attori molto versatili, molto bravi a cambiare registro, e anche qua lui è molto efficace. Se Russell Brand fa così ridere, non è solo per gli americani più che per gli italiani, perché effettivamente assomiglia molto anche dal vero alla rockstar che interpreta, ma anche perché sono Jonah Hill, davvero notevole anche per gli appassionati di musica, perché c'è Christina Aguilera, Katy Perry, Puff Diddy, io non so più come si pronuncia, perché cambia nome ogni 6 mesi, quindi è abbastanza difficile, però insomma si entra veramente nel mondo delle rockstar, si racconta questa buffa vita che però non è nemmeno così lontana dalla realtà, ci si diverte, il film è girato bene, è scritto bene, dietro c'è la mano di Judd Apatow, che non è alla regia, è la regia di Nicola Stoller, ma è alla produzione. Judd Apatow sta diventando uno di quei registi produttori molto potenti che firma più o meno tutti i film che fa, un po' alla J.J. Abrams, che come è successo in Cloverfield, gira forse anche i film che non firma. Lo vedremo per Judd Apatow anche nelle Amiche della Sposa, che uscirà ad agosto. Insomma, molto interessante, secondo me, molto divertente, un bel film di genere che secondo me intratterrà anche i non appassionati di musica, anche chi vorrà sfuggire in questa calda estate al ciclone Harry Potter che sta per abbattersi sulle sale di tutto il mondo. Lo ricordiamo, l'uscita ormai prossima avventura il 13, e un film di cui già tutti dicono record sicuro di incassi, perché quello che si è visto nella notte della premiere londinese, con gente accampata a Trafalgar Square da 4 giorni e 4 notti per vedere come andava a finire appunto l'epilogo della saga del maghetto, chiaramente non può che far presagire a situazioni di questo tipo. Ma siccome qualcuno cerca anche altri tipi di evasione, ecco che per esempio questo Getting to the Greek, ovvero In viaggio con una rockstar, può diventare una valida alternativa. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Franco, alla prossima settimana. Ebbene, lasciamo allora Boris Sollazzo. Noi abbiamo il tempo, prima di dare la linea alla regia, di dare un'occhiata a quello che è successo al box office lo scorso weekend, dove è arrivato Transformers 3 e ha fatto incetta di sale e anche di incassi, un 2 milioni e 4 nel weekend, 3 milioni e 9 dall'inizio dello sfruttamento, era uscito qualche giorno prima, e quindi insomma un buon esordio per il terzo capitolo della saga firmata da Michael Bay. Secondo posto per Cars 2, che dopo un inizio così almeno nel weekend si è abbastanza ripigliato, finendo la settimana circa 7 milioni di incasso globale, il che tutto sommato non lo mette lontanissimo diciamo dalle posizioni dei più recenti film Pixar, anche se forse è un attimino sottotono rispetto ai suoi compari. Terzo posto per L'ultimo dei Templari, al cui non avrei dato una lira, invece i nostri amici che vanno al cinema in Italia ne hanno dati ben 2.400.000 di euro, peraltro, quindi valgono di più. E poi I Guardiani del Destino al quarto posto, voglio segnalare Libera Uscita al sesto, l'ottimo andamento di Le Donne del Sesto Piano, che si avvicina quasi al milione di euro di incasso, che per un film piccolo ma molto molto divertente e molto gradito dal pubblico che lo ha visto, è sicuramente un ottimo risultato, mentre riesce a non decollare The Conspirator, bellissimo film di Robert Redford sull'assassinio di Abramo Lincoln, ma che evidentemente non incontra proprio il pubblico italiano. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qui, Rosa Purpura che continua con un'altra novità al cinema, con un'altra novità in sala, l'ultima di cui ci occupiamo in questa puntata, e è una novità sorprendente, positivamente sorprendente, un film diciamo italiano, anche se poi adesso sentiremo il suo regista, in realtà un po' italiano, un po' francese, ma come dire, il film è italiano, italianissimo, girato in Italia con attori italiani, ed è un noir, un thriller psicologico molto interessante, che ancora una volta come protagonista, diciamo così, la figura cinematograficamente nobile, nobilitata anche da tanti maestri dell'horror, della casa un po' maledetta. Qui non ci sono fantasmi, spiriti alla REC, per intenderci, tanto per citare l'ultimo capolavoro di Balagherò, ma ci sono invece storie non risolte che vengono a galla proprio in occasione della morte di un uomo, uno scienziato, insomma un medico, che lascia in eredità al suo figliuolo una villa bellissima ma anche molto disabitata, molto trasandata, e in mezzo ai Monti Sibillini. Allora questo ragazzo va lì con la macchina, prende, guarda, pensa che cosa farne di questa casa, e nel capire come lavorare, se ristrutturarla, se venderla, eccetera, incontra i vicini di casa, che all'inizio si dimostrano molto affabili e poi si dimostrano un po' meno affabili, anche se in mezzo ci sono anche storie d'amore e di sesso, insomma, piuttosto legate. Allora, noi cominciamo a sentire una piccola clip dell'erede, questo è il titolo del film, e poi sentiamo invece il suo regista. Come ha fatto tuo padre a comprare casa in un posto del genere? Magari poi ti conviene venderlo così, tanto in fondo noi che ci veniamo a fare qui? Io sono Paola. Paola, sì certo. Abito qua accanto. Che fai di lavoro? Sono radiologo. Come se fosse a casa nostra. E ecco, abbiamo fatto come se fosse a casa nostra. In effetti un po' lo era. Michel Zampino al telefono, qui alla Rosa Purpurea. Buongiorno Michel. Sì, buongiorno a voi. Allora, raccontaci un po' questa storia. Intanto raccontaci un po' di te, perché questo cognome italiano con un nome francese cosa vuol dire? Che mio padre era italiano e la mamma francese. Ecco qui, spiegato l'arcano. Ma la casa dei Monti Sibillini è tua? Allora, la verità è che la casa di cui ho preso possesso io nella mia vita è a Pagani, che è vicino all'Aquila, in Abruzzo, però per il film ci sembrava più giusta una bella villa al stile Liberty nei Monti Sibillini, quindi nelle Marche. Spero per te che gli elementi autobiografici del film finiscano qui, insomma, perché poi è tutto molto inquietante. Sì, sì, sì, diciamo che l'incubo a cui assistiamo nel film da parte del protagonista io non l'ho vissuto, ci sono state alcune tensioni con i vicini, però diciamo che la trama all'inizio invece è quella che ho conosciuto, cioè di scoprire attraverso delle persone che vivono tuttora accanto a questa casa la giovinezza di mio padre, alcuni aspetti che io non sapevo, infatti quella casa non conoscevo l'esistenza. E peraltro questo è uno dei temi secondo me più interessanti, al di là di quelli della trama, di quelli coinvolgenti del thriller psicologico, cioè proprio il fatto che molto spesso gli altri hanno di noi visioni, notizie, segreti che i nostri più cari parenti non hanno. Ci sono due modi diversi di vedere ognuno di noi, quello di chi ci sta vicino e quello di chi ci guarda magari da vicino casa, ma da lontano, da fuori dal nostro nucleo familiare. Sì, esatto, questa è la percezione E poi soprattutto nel caso di Bruno, che è interpretato da Alessandro Roia, il protagonista del film, c'era l'ignoranza totale che suo padre avesse un passato così oscuro, così cupo, così misterioso. E questo dimostra che uno può vivere accanto a una persona per decenni e scoprire che non è quello che è. Ecco, tra l'altro un'altra cosa molto bella a mio modo di vedere è proprio questo quasi conflitto di classe, perché Bruno è un ragazzo della buona borghesia milanese, però si trova a fare i conti con un mondo contadino ancestrale, che dimostra secondo me nel tuo film ancora tutto il suo potere, tutta la sua forza. Sì, guarda, se l'hai percepito così mi fa molto piacere, perché era uno degli intenti principali del film, un po' sul modello di Cane di Paglia, di Peckinpah, anche se chiaramente l'ambizione è alta, visto il capolavoro di questo regista, però mi sono ispirato a questa situazione, cioè il borghese consensuale, educato, urbano, che si ritrova catapultato in una situazione che lui cerca di gestire, e questo dimostra che nella vita delle cose non si possono gestire alla fine, purtroppo. Allora, Michel, noi ti attendiamo a prossime prove, però ricordiamo la presenza al cinema dell'Erede. In quante sale esce? Allora, l'Erede esce in 20 sale in Italia, e quindi sarà a Roma, al Jolly, Lucia e Roma Est, e anche a Milano, Bicocca, Pioltello, Torino, Lingotto. Quindi c'è una bella copertura per un'opera prima, e quindi siamo molto contenti, anche perché Alessandro Roia si è investito molto in questo film, e pensiamo che per noi è comunque una cosa molto positiva per un'opera prima avere questa visibilità, siamo molto contenti. E soprattutto per un'opera prima di genere, che al cinema italiano male non fa. Grazie a Michel Zampinot. Grazie a voi e per l'invito, e buona continuazione, grazie. E questo allora era Michel Zampinot, regista dell'Erede nei cinema italiani. Giochiamo insieme con la seconda traccia del Blu-ray Game di oggi. Farò di tutto per uscire da questa merda. Bravo. Potremmo farli fuori tutti questi coglioni. Sono talmente intottiti che neanche se ne accorgerebbero. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, più tardi ci sarà l'ultima opportunità. E adesso trasferiamoci in Romagna, in Riviera, trasferiamoci a Riccione, dove si sono concluse nel corso di questa settimana le giornate professionali di cinema, versione estiva, una versione estiva che mancava da qualche anno e che è tornata proprio per presentare agli esercenti, come sempre non si tratta di un festival, di un incontro tecnico, professionale appunto, presentare agli esercenti i listini, le uscite dei film che appunto affolleranno i cinema nel prossimo autunno e fino al Natale, diciamo, al momento del Natale. Poi a Sorrento ci saranno le giornate per presentare quello che è la parte successiva appunto della stagione. Ne è venuto fuori il quadro di una stagione al momento con alcuni motivi di interesse, alcuni motivi forse anche di non interesse, questo lo vedremo nel corso appunto dell'anno, ma i film alcuni sono molto molto attesi, altri forse non sembrano avere l'appeal necessario, ma chiaramente sono tutti listini in costruzione. Quel che è stato anche interessante è stato il premio che proprio lì a Riccione gli esercenti italiani hanno dato alle commedie che hanno risollevato le sorti del cinema italiano, facendogli riconquistare importanti quote di mercato e portandoci ai successi che avete sicuramente visto tutti. Fra questi c'era Che bella giornata, il secondo film che aveva come protagonista Checco Zalone, lo abbiamo intervistato. Allora Checco, ma pochissimo tempo dopo il film, proprio poco poco, un super premio che arriva da quelli che insomma hanno deciso di puntare su di te, sul tuo film. Sì, sì, mo lo stavo dicendo al tuo collega, è un premio oggettivo, diciamo, il premio dei soldi, che sono un numero, non suscettibile di critica, cioè una cosa può piacere o non piacere, ma i soldi piacciono proprio a tu, non ho mai trovato uno che non gli piacciono. I soldi. Questi soldi sono di più o di meno di quelli che pensavi? Per me sono molto di meno, per chi ha guadagnato sono di più di quanto loro abbiano mai pensato nella loro vita, penso che non gli capiti più una roba del genere, perché esiste anche una giustizia divina. Quindi. Senti, stai lavorando al nuovo film, al nuovo progetto, ti stai ancora godendo? No, sto lavorando ad un tour nei palazzetti dello sport con uno spettacolo live, che è la mia vera passione, diciamo. Ho visto che sarai anche a Milano, se non sbaglio. Sì, sarò anche a Milano al Forum di Assanzi, facciamo pubblicità Insomma pure. Che del cinema non ce ne frega niente. Esatto, no, ma magari verrà il tuo pubblico del cinema a vederti suonare e cantare, no? Ah, è vero, in questo senso sì. Sì, sì, è uno spettacolo dove la musica, diciamo, ha una posizione centrale, che è la mia vera passione. Ci saranno personaggi, imitazioni, sketch, una cosa leggera, non è teatro. Con che repertorio? Cioè, anche pescando nelle tue cose dei film? No, no, è tutto nuovo, tutto nuovo. Non c'è niente, ci saranno 20 minuti finali di bis con le mie evergreen, cioè una canzone. Angela. E cinema invece? Cinema nel 2012 dovremmo presentarci con un nuovo prodotto, che però non abbiamo ancora. Non sappiamo neanche cosa fare. Sì, sommariamente abbiamo un'idea, però non ci siamo ancora messi a lavorare. Bravo, ciao. Ciao. E oltre a Che bella giornata con Checco Zalone che abbiamo sentito, sono stati premiati anche Immaturi, commedia sorprendente, 14 milioni e rotti di incasso in Italia, e Qualunque mente, un altro dei grandi incassi della commedia italiana della stagione che si va chiudendo, diretto da Giulio Manfredonia, che sentiamo. Tu sei qui non tanto per un film nuovo, ma per un film seminuovo, diciamo così, appena un po' usato. Un po' usato garantito, però insomma, Qualunque mente porta a casa premi. Cosa significa per te un premio in questo contesto, cioè nel contesto degli esercenti, cioè di quelli che poi tirano su la saracinesca e programmano i film? Guarda, io lo dicevo pure prima, credo che il premio degli esercenti è un premio particolarmente, che a me fa particolarmente piacere e credo particolarmente importante. Credo che se il cinema italiano ha avuto una ripresa e comunque continua ad avere una bella visibilità nelle sale, perché c'è un esercizio appassionato che non sceglie solo in base alla, così, alla cosa sicura, ma che ama il nostro cinema, lo difende. Parlo soprattutto di quell'esercizio magari delle sale cittadine, che fa più fatica, però dove poi magari il cinema italiano lo raccoglie di più, perché c'è un pubblico che ha più appassionato ai nostri film. Prossimo progetto? Quello che sicuramente sto facendo è, sto scrivendo un film con Bonifaci prodotto da Cerri, che spero riusciremo a girare tra un anno. È un ritorno più alla commedia sociale, diciamo, modello si può fare. La Rosa Purpurea. Ultima parte della Rosa Purpurea, siamo arrivati al momento del cinema domestico, delle nostre visioni private, quelle che ci facciamo a casa con DVD, Blu-ray, home video in genere, anche qualche videocassetta se capita, e con invece tutto il cinema che c'è in televisione. Cominciamo da qui, cominciamo dagli amici del settimanale Film TV, con Nicola Cupperi per un paio di selezioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Nicola. Ciao Franco e un bentornato a tutti gli ascoltatori di Radio 24 alle segnalazioni di Film TV. Per questa settimana cominciamo con Il segreto di Vera Drake, in onda su Rai Movie domenica a 00:30. Nella Londra degli anni 50, Vera Drake, un'irreprensibile moglie e madre di famiglia, una vicina e amica sempre disponibile e generosa, pratica aborti clandestini e illegali. Questo film, ispirato a fatti reali e girato con un budget veramente ristretto, tant'è che per questo motivo è ambientato soprattutto in interni, è stato girato dall'inglese Mike Leaf. È un film asciutto, ma sentito, un ritratto di un mondo maschilista, ipocrita e perbenista. Un grande cast di attori presi in prestito dal teatro, fra cui spiccano su tutti la Vera Drake di Imelda Staunton, che in seguito vestirà anche i panni di Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter, e Sally Hawkins, che lavorerà ancora con Mike Leigh in Happy Go Lucky. E allora, Il segreto di Vera Drake di Mike Leigh su Rai Movie domenica a 00:30. Cinema italiano di grande respiro e di grande autore. Per la seconda proposta. Per la seconda segnalazione, La casa del sorriso di Marco Ferreri, in onda su Rai Movie martedì alle 8:10 del mattino. Tra due ospiti di una casa di riposo scoppia un amore decisamente appassionato, ma con un misto di cattiveria e soprattutto bigottismo e perbenismo, gli inservienti della casa sottraggono la dentiera alla donna e la sostituiscono con dei denti da vampiro. Si tratta di uno dei migliori film del tardo Marco Ferreri, un regista assolutamente fondamentale e troppo spesso dimenticato dal grande pubblico. Provocatorio come sempre, anche se bisogna dire meno graffiante rispetto agli anni migliori, Ferreri ritrae la senilità senza semplificazioni patetiche e vince l'Orso d'Oro nel 1991. E allora La Casa del Sorriso, Rai Movie, martedì alle 8:10 del mattino. Grazie a Nicola Cupperi. E ciao Franco, ci risentiamo la settimana prossima con le segnalazioni di Film TV. Ebbene, allora noi andiamo avanti con l'ultima conclusiva traccia del Blu-ray Game di oggi. Se lo vuoi sapere, io so qualcosa che tu non sai. Proprio così, la sua mente è lucidissima, ma la sua anima è matta. Ti dico che sta morendo. Lui odia tutto questo, odia tutto questo. C'è qualcuno che sta morendo, e allora la rosa purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray di questo film che sveleremo chiaramente la prossima settimana. Così come adesso siamo al momento della verità per quanto riguarda il grande Blu-ray Game, il grande e super dimensionato Blu-ray Game della scorsa settimana. Allora voglio farvi ascoltare tutte e tre le tracce nell'ordine come le avevamo proposte. Sentiamo. Non capisco perché è così arrabbiato. Si tratta solo di qualche carota e di qualche cavolo. Ah, e di quei 3 sacchi di patate che abbiamo preso la settimana scorsa. E poi? Non è facile da accettare la sua scomparsa, specialmente ora che tuo fratello ti ha abbandonata. Lasciami sola, serpente! Ma tu sei sola. E infine? Vorrei che tu sorridessi di nuovo. Non piangere. Per coloro per cui è giunta l'ora. Tu vivrai per vedere questi giorni rinnovati. Insomma, avevamo evitato il mio tesoro, avevamo evitato una serie di cose che ci sembrava potessero portarvi troppo facilmente sulla buona strada, avevamo disseminato il game nelle tre parti chiedendovi di indovinare tutti e tre i film e il legame che li metteva insieme, e ciò nonostante, grazie anche alla vostra grande partecipazione, i più veloci, i più bravi e quelli che porteranno a casa un pesantissimo cofanetto che adesso Claudio Pofi ci racconterà perché è un'uscita davvero straordinaria, sono stati Massimiliano Fliri di Torino e Kevin Quacu di Guardia Grele, provincia di Chieti. Questi sono i due amici ascoltatori che riceveranno questo ingombrante pacco nei prossimi giorni con tutto quello che c'era da sapere, da vedere, da rivedere del Signore degli Anelli, perché questa era la saga, questi erano i tre film che vi abbiamo presentato: La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri, Il Ritorno del Re. Claudio Pofi, un'edizione davvero straordinaria. Sì, assolutamente memorabile, infatti è da pochi giorni disponibile appunto in alta definizione la versione estesa, così come venne riconcepita dal regista Peter Jackson. Questo box contiene 15 dischi, i tre film in Blu-ray divisi in 2 dischi ciascuno per evitare decadimenti dal punto di vista qualitativo. La qualità video appunto è assolutamente superiore alla precedente edizione Blu-ray di Medusa Film Home Entertainment, anche l'audio, grandissima cura, perché è disponibile la versione DTS ad alta risoluzione non solo in inglese a 8 canali ma anche in italiano. Oltre ai 6 Blu-ray sono presenti 9 DVD che raccontano la colossale produzione con tantissimi documentari, mappe interattive, focus sugli effetti speciali, e sono inclusi anche i 3 film documentario del regista Costa Bottes per un'edizione definitiva della trilogia tolkieniana. Insomma, portateveli in ferie perché effettivamente ci vuole molto molto tempo per poter godere di tutti i contenuti di questa straordinaria edizione. Io voglio ringraziare Medusa che ci ha messo a disposizione questo regalo, che forse è il più grosso che abbiamo fatto in tanti anni di DVD game e Blu-ray game qui alla Rosa Purpurea. Andiamo alle recensioni, andiamo alle novità che arrivano in videoteca, partendo da un bel film di guerra e azione sottomarina, U-Boat 96. Hai idea di quante navi stanno forzando il blocco? Proprio ora, mentre noi stiamo qui a fissare lo sguardo nel vuoto. Dove sono i nostri aeroplani? I nostri ricognitori, signor Goering? Quelli nemici li abbiamo sempre sopra. Parlare a Vander è l'unica cosa che sa fare quel grassone. In Francia l'equipaggio dell'U-Boot 96, un sommergibile nazista, si imbarca per una nuova missione con l'aviazione sempre meno presente. Verso la fine del 41 il pattugliamento tedesco dell'Atlantico si fa sempre più pericoloso e mortale. Da una storia vera, uno dei più grandi film bellici di sempre, che assieme a Stalingrad di Joseph Vismayer rappresenta la punta di diamante del cinema dedicato alla Seconda Guerra Mondiale visto attraverso gli occhi del soldato tedesco. Da Sony Pictures Home Entertainment finalmente arriva in alta definizione un'edizione unica, due dischi Blu-ray. La versione unica presente è quella rimontata di questo capolavoro di Wolfgang Petersen, l'edizione lunga di 208 minuti, di notevole qualità, c'è un po' di grana, ma è quella legata agli effetti speciali dell'epoca e alla fotografia, c'è una traccia Dolby Digital in italiano accettabile, però attenzione perché il film venne recitato interamente in tedesco, per cui consigliamo l'esperienza della traccia audio originale per giunta ad alta risoluzione. Tra gli extra il commento degli autori, un tour del sottomarino usato nel film in compagnia dell'attore Jürgen Prochnow e due documentari sulla lavorazione. E invece atmosfere livide di una Barcellona poco da cartolina, in questo caso in Beautiful di Alejandro González Iñárritu. Hai sistemato le cose? Sei pronto per andartene? Sì, credo di sì. Ci sto provando. Credi di sì? Bisogna che tu sia sicuro. Metti a posto le cose, Osval. Non lasciare niente in sospeso. Io non voglio morire, Bea. Non posso lasciare i miei figli soli. Non posso, mi fa paura. Credi di essere tu a occuparti dei bambini? Non essere ingenuo, Osval. È l'universo che si occupa di loro. Non sì, però l'universo non paga l'affitto. Con una moglie mentalmente instabile, Usbal si occupa con amore dei due figli più piccoli. Senza lavoro, l'uomo vive alla giornata, consegna denaro a poliziotti corrotti, comunica con i defunti, si arrabatta per andare avanti. Il mondo gli crollerà addosso, una volta preso di avere un'aspettativa di vita di 2 mesi a causa di un male incurabile. Il regista messicano Iñárritu ambienta il suo quarto lungometraggio, cupo e disperato, tra i quartieri degradati di una irriconoscibile Barcellona. Xavier Bardem è l'eroe tragico, Usbal, in una interpretazione da Oscar. Il Blu-ray di Universal Pictures è di eccellente qualità, notevole la traccia DTS in italiano, maggiore spessore per quella ad alta risoluzione originale. Come extra troviamo il video diario del regista di circa mezz'ora realizzato durante la produzione. Naturalmente il film è disponibile anche in DVD. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E allora, dopo Claudio Pofi, dopo tutta questa buffata di un video, noi abbiamo solo il tempo di salutarvi, perché La Rosa Purpurea finisce qui, l'appuntamento va la prossima settimana, dico solo, sarà la settimana di Harry Potter e ve ne accorgerete anche dalla Rosa Purpurea.